The Night Train. La compa smetti. Andiamo? Buonasera, ma io stavo parlando. Ma su Ciolla. Buonasera a tutti quanti i nostri radioascoltatori. Siamo i Mozilla Bros. Abbassami la nostra sigla che sennò non si capisce nulla. Siamo ritornati in trasmissione, grazie. Siamo ritornati in trasmissione come ogni mercoledì sera alle 16 circa. E siamo ritornati in trasmissione con la nostra trasmissione che manda blues e parla di cazzate nerd. Togliete Marco dalla regia, per favore. Vi vado a presentare la formazione. In regia ci sono Marco Cacaminchia Sendai. C'è Flavia che non dirà una parola. Come so. Ne ho detta anche più di una, tieni il conto. 10 in una botta sola. C'è Ciccino che si sta imbriacando allegramente. Ciao anche dalla mia amica. Sì. E qui nella blues side of the transmission c'è il nostro duo petronese. Paolo Fail. Ciao. E Stefano Fail. State comodi. E mancano all'appello il nerd Garuf e il bluesman Andrea Blues. Ma per causa vilienza. E poi ci sono io, Lorenzo Blues, la calda trasmissione, la calda voce. Buonasera. Esatto. Partiamo subito con un annuncio importante, serio. Anche siamo partiti con cazzate a dire basta, che voleva fare Ciccillo se non sbaglio. Sì, no, vabbè, perché nella... Sì o no? Sì o no? Ho detto sì, no. Sì, no, nella notte di ieri, insomma, a cavallo tra il 14 e il 15, sì. A Reggio Calabria è stato dato alle fiamme il centro sociale Cartella, che era davvero un punto di riferimento per quella realtà comunque complicata come quella Regina. Patria e terra di fasci e mafia, che molto spesso queste due cose coincidono, non sono, diciamo, due insiemi disgiunti, anzi molto spesso da quelle parti vanno proprio a braccetto. Collaborano. E quindi siti misi buono il Reggio. E insomma, il loro centro sociale è stato dalle fiamme, completamente distrutto. I ragazzi hanno prontamente, diciamo, convocato un'assemblea per la giornata di ieri, dal quale in sostanza sta uscendo quella che sarà la reazione, ovviamente, di ricostruire questo centro sociale per dar forza a quella che la loro voce, le loro azioni che puntualmente compivano in questa terra difficile. E niente, vabbè, il 26 saremo sicuramente tutti lì per dare il via alla ricostruzione di questo centro sociale. A loro e a tutti i ragazzi Reggio che quotidianamente si impegnano nella lotta sia contro la mafia, ma più in generale contro le ingiustizie sociali che ogni giorno devono subire, ma tutta la nostra solidarietà, dico bene? Eh sì, sì, certo. Ricordiamo che per esempio fra i tanti progetti nati lì c'era anche Radio Transizione di Fase, per esempio, che se, non vorrei dire una stupidaggine, comunque il cartello è stato uno dei nidi di Radio Transizione di Fase. Comunque sì, come ha già detto Ciccillo, questo è ennesimo atto intimidatorio, perché tipo un mesetto fa ci sono già state delle brutte avvisaglie perché avevano svaligiato tutta la cucina della notte. Non fermerà assolutamente quello che è il cartello, anzi testualmente durante l'assemblea è stato detto che non li fermeranno neanche a cannonate. E quindi a breve rivedremo rinascere appunto alle ceneri, come la Fenice, il centro sociale Cartella. Quindi aspettatevi anche a breve varie iniziative di benefit per raccogliere i fondi appunto per ricostruire il cartello, che è stato gravemente danneggiato, diciamo quasi raso al suolo, sono cadute travi portanti, cioè non è rimasto quasi più nulla della struttura. E comunque appunto ricordiamo già una prima data, che è quella del 26, dove armati di chiodi e martelli si andrà a ricostruire quello che sarà il nuovo cartello. Bene, dopo questa doverosissima comunicazione che ci sentiamo di fare con tutto il cuore ai compagni di Reggio, ritorniamo, diciamo, sulle note blues e nerd di questa trasmissione. Partiamo col primo pezzo. Col primo pezzo? Sì, col secondo. Partiamo col secondo oggi. Ahia. Rompiamo. No, ma lo sai perché il primo pezzo l'abbiamo messo perché l'aveva proposto Andrea Blues qualche trasmissione fa, visto che è l'ennesima volta che ci tira il pacco, e lo vorrei sottolineare. In realtà è un titolo interessante questa canzone. PDG. Sì, è una canzone che abbiamo scelto pensando al nostro Ono Sendai. E considerato quello che è successo venerdì scorso, o era sabato, direi che ci sta, insomma. Il Messia verrà ancora. Esatto. E noi lo sappiamo. Sembra in il titolo di un porno. È la tua mente deviata. Qualsiasi cosa, secondo me. Visto dai tuoi occhialetti alla John Lennon, tutto sembra un questo porno. È l'inizio di un nuovo genere porno cristiano. il porno cristiano. Ma in effetti sarebbe un porno gran charge. Modo per pubblicizzare la parola di Dio. Cioè, pensaci. I dialoghi di un porno. Oltre al verbo... la parte dei soliti idioti, dove ci sono i due preti che tentano di innovare la chiesa con proposte assurde. Oltre al verbo di Dio porteremo la verba. Ma guarda di che Dio. Cioè, se c'è qualche ecclesiastico di quelli potenti in ascolto che io se non la credo. Come idea. Io non credo. Guarda, credo proprio di no, comunque. Considerato il target, penso che ci abbiano scomunicato il nome Mozilla Bros. Cioè, tipo... Vabbè, vicino un vescovino. Vicino a Satana ci siamo... Vescovino. vabbè. Terminiamo questa cosa e facciamo venire il Messia. Roy Buchanan. If you know what I mean. We'll be right back. Blues. E se ci fosse stato Andrea Blues avrebbe detto Key Blues. Ma no, Andrea Blues non c'è, non ci può allietare la trasmissione con le sue perle di saggezza blues cosentina. Cosa possiamo dire di questo incredibile chitarrista? Oltre che c'è un fail wikipediano. Sì, sì, vabbè, le nostre fonti di conoscenza Petronese. No, vabbè. Diciamo Petronese che Petronese in quanto fail, non ho capito. Sì, esatto. Ma io non ho detto niente. Le nostre fonti, le nostre sorgenti di pacchetti di informazioni sono alquanto failate in questa vabbè. Per quanto riguarda Roy Buchanan. Che cazzo sto dicendo? Che se andate sulla pagina di Wikipedia inglese, vedete che il famoso chitarrista suona normalmente con la mano sinistra, come tutti quelli che usano la mano destra per scrivere. Invece per l'Italia in Italia Roy Buchanan diventa magicamente mancino. Non si sa per quale strano artificio, ma la foto è specchiata e insomma, perché noi siamo esperti. Perché noi siamo specchiati. Cosa possiamo dire? Petrona Boys, cosa possiamo dire di questo chitarrista? Ha inventato una bellissima tecnica blues. Bellissima tecnica, non so, ah boh, non armonic, solo, non solo blues. Chitarristica, diciamo. Sì, diciamo chitarristica, che è il pinch harmonic. No, serio. Ho sbagliato la pronuncia, no, vabbè. Comunque, questa tecnica prevede di suonare, diciamo, una corda sia col plettro e poi sfiorarla col dito pollice per avere un armonico artificiale. Che significa armonico? Armonico sarebbe il produrre un suono tramite vie traverse. Bellissimo. Sembra essere su Super Quark. Continua. Sì, certo. Vai, caro Piero Angela di noi altri. Il babbuino. Failo. Vive. Fantastico. No, dai, il Roy Buchanan suona. Suona l'armonico artificiale. Dicendolo alla petronese, come tutti i buoni petronesi sanno, l'armonico artificiale suoni prima la corda e poi la mappi col pollice. E viene il meglio armonico artificiale. Ogni mercoledì su Rai 1 Piero Angela spiega il blues. E chi te? Vabbè, l'armonico è praticamente se tocchi la chitarra con, cioè, la corda della chitarra e poi la suoni, senti tipo come sì. Senti? Va bene, ha reso. Questo l'idea. Sarà un jingle la prossima puntata. Sì, sì. Fantastico. C'è da dire che questo chitarrista comincia a suonare all'età, a un'età molto proibitiva. No, è da, diciamo, quasi da infante. Infatti gli viene regalata la sua prima chitarra a 7 anni. Buono. Si definisce un mezzo lupo. Che questa... è già chiesto. Infatti aveva problemi di cocaina e di alcol. Vabbè, te lo lasciamo. Comunque no, non te poi... drogarsi fa male. Marco ve lo può confermare. Ma guarda che attacco con cocaina. Perché? Mentre all'età di 13 anni, per la bellezza di $120, si compra la sua prima telecamera. $120 negli anni 70 erano belli sordi. E a 15 anni scappa di casa per seguire la strada del blues. Buono. E poi nel e dell'eroina anche. Anche trovandole entrambe proprio alla grande. Ecco. E poi nel 71 è comparso in un documentario che era intitolato Il più sconosciuto chitarrista del mondo. È una miseria, però insomma, però poi, ha fatto belle cose. Ha intrapreso una bella carriera. Sconosciuto potrei dire sti cazzi, perché il famosissimo il famosissimo Slowed, nonché pluriconosciuto Eric Clapton, gli chiese di unirsi più volte ai Derek and the Dominos, gruppo che ci ha regalato una canzone che voi ben conoscete. No, diciamo Leila. No, non la conosco. Poi comunque è riuscito a sfondare finalmente dopo magari questo... Il muro della sì. Smettila per favore. Soltanto che svariati anni dopo la sua morte, dopo una lite coniugale con la moglie, viene trovato, diciamo, impiccato nella sua cella, perché veniva arrestato. Proprio quella sera veniva arrestato poiché ubriaco e strafatto alla guida. Queste sono le storie del blues, diciamo. Bene. Che cazzo sta succedendo là dietro? Non ci posso credere. Cosa atti di vilipendio internazionale. Che cos'è? Che succede? Forse no, è che Barack Obama aveva scritto non so cosa su Twitter. Abbiamo risposto a Roku. Fantastico. L'account di Mozilla Bros manda a fa' culo. Verrà bannato a vita. A breve un nuovo account dei Mozilla Bros su Twitter. Buono. Non c'è problema. Ricordate di followare. Boh. No, prima di andare col prossimo pezzo, io capire che vuol dire mappare o mappare o insomma quella cosa che è. Rimetti la musichetta. Che te lo spiego. Non mi viene. Io ti posso fare il pum, l'armonico. Sì. Lo cerca su Google, attenzione. No, ci può. No, sto scherzando. Allora, l'arte dell'ammappare consiste nel soffocare e o coprire parzialmente o totalmente una qualsiasi cosa si stia facendo. Omertà, praticamente. Sì, vabbè, quando ammappi il fuoco vuol dire che ci butti sopra qualcosa. Quando ammappi un pititto, voglio dire, è quello. Momenti eccezionali. Aspetta, io direi passiamo all'altro pezzo, per favore. Aspetta, significa schiacciare e compattare. Delle regioni del sud Italia. Incredibile. Su Yahoo Ads significa che quando ti si incrina il pisellino ti viene voglia di puntini. Asterisco. Vabbè, ma Yahoo Ads sappiamo che è una fonte di disinformazione proprio. Dai, andiamo col prossimo pezzo che è fuori capo e poi insomma. Smettiamola con questa cosa. No, si chiama così. Sì, ma smettiamola con la trasmissione fuori per sempre. Capo. Chiudiamo. Ammappatevi gli hard disk. Let me first say how wonderful it feels to know that it's 2007 and we just launched into a slow blues and 7,000 people in LA went nuts. All is not lost. Thank you. you, girl. Being one and one half steps behind all the time. Go tell your friends, your stupid friends. Go tell your friends just what Johnny did. And don't lie about it either. Tell the truth, baby. Go tell your friends. Go tell your friends exactly, exactly what Johnny did. Yeah. Tell you that you're stupid and crazy, baby. No, they're just as messed up as you is. Can I play my guitar? Can I play a loud one? Schermo più grande. Mia Ramadan. Inutile visto che non ci potete vedere i porti. Diciamo i bluesmen più accaniti, ma 10 minuti sono davvero un po' troppi, anche perché diciamo la nostra trasmissione con i soliti ritardi inizia sempre. Ma infatti l'idea per questo punto, per questo pezzo era farlo assaggiare di sfumarlo con un altro pezzaccio. Vai, Ciccillo. In realtà era per farvi venire voglia di ascoltare. Poi ve l'ho ascoltato a casa. Questo John Mayer. Mica siamo una radio qua. Questo era John Mayer. Il pezzaccio si chiama Out of My Mind. Fuori dalla mia capa, come diceva prima Cecil. Capa. Fuori capa. Keep Blues. Keep Blues 2005. Minchia, questi sono i meglio anni 60. No, il 2005. Cosa, Marco? Sono i meglio. E questo invece è il gatto Nian. Il meglio gatto Nian. Il meglio blues del gatto Nian. Che blues. Luca Bruno vi ucciderà. Sta castando ora l'ultimate di Cardus. Che lo salutiamo. Soprattutto ci congratuliamo con lui per la sua nuova dipendenza da League of Legends. No, sono entrato nel tunnel. Sì, ho rovinato l'informatica mondiale. Gli mancava un semestre, ora rimarrà 10 anni. Insomma, passiamo a queste cazzo di nerd news. News nerd, stupido, cretino. Visto che non è che stiamo traccheggiando troppo, dai. Eh? Un po' di calma. No. Per Dio. Vabbè, detto così. E partiamo con un resoconto, vero Cici? Il resoconto è la festa di autistici. Sì, ah. Come avevamo detto nella scorsa puntata, ci sarebbe stata... Che festa? Non ieri, lunedì? Sì, lunedì, due giorni lunedì. Fa. Il 14. E già mi stai complicando la vita in maniera... Lunedì. Cioè sì. Due giorni fa. Appunto. La festa, la serata benefit che abbiamo organizzato noi scioperati di Cosenza in favore di autistici. Alle officine Babilonia. Vabbè sì. In generale era una serata... Ma perché? Io puntualizzo quando parli dei negri del blues, no? E io non lo so. Notiamo, notiamo diciamo, il non razzismo di questa frase. No, no. Però cacchi la minchia, lui ne dico cose interessanti. No, stavo dicendo, vabbè, abbiamo fatto questa serata benefit. È andata abbastanza bene, diciamo, da un punto di vista andata di andata benefit. È andata benefit, diciamo, cazzate a parte. A morire. La serata è stata sicuramente interessante. Abbiamo organizzato... In realtà era molto bello l'allestimento presente all'interno dell'officina. C'era... Un po' gay. Un po' gay. Era un po'... Una poco dark. L'hai fatto tu, un po' gay, diciamo. Scusa. C'era un bellissimo tunnel carpale nero che non funzionava. Come non funzionava? Era una bellissima postazione per l'anonimato. Infatti c'è, appunto, fra le cose che c'è la postazione dell'anonimato, che abbiamo messo proprio in fondo al tunnel, con tanto di neon zallari. Ed è stata anche usata la postazione per l'anonimato per da uno. Facebook. Esatto. Vedi, Lorenzo, sempre che tac, tu stai perdendo la cosa. Vabbè, però è preparato. Bisogna. Sì, sì, è preparato. Un pacero, tu non sei un cazzo di blues. Quindi diciamo che insomma non ha proprio. Yachite. Che ha detto? Yachite. Che ha detto? Che non sei un pene di blues. Perché cazzo non si può dire. Vabbè, un poverino, lasciamolo stare. Poi fra le altre varie cose c'è stata la Pirate Box, che non è stata usata, però c'era, è stata molto apprezzata, sì, con la sua lampadina gialla in testa. C'è stato il seminario di Garulf, che ha fatto l'aspetto più o meno, diciamo, la parte tecnica del seminario. Nel quale appunto si spiegava, nel momento in cui tu devi utilizzare degli strumenti per l'anonimato, magari non utilizzare Facebook e quindi... Da brave. Perché proprio mentre lui parlava, sì, c'era gente che stava proprio battendo il mouse su Facebook alla grande. Sì, ciao, sono identificatemi dalla postazione anonima. Vi sfido a identificarmi. Chi sono? Insomma, sì, stato, perché lo stato... ricordiamo, insomma, alla fine tu puoi avere tutti gli strumenti anonimato che vuoi, però che cazzo se metti il tuo nome e cognome, porco Giulio, cioè, voglio dire. Ma anonimato, voi che ci ascoltate lo sapete bene, significa privacy, cioè rispetto per, cioè, voler dare le nostre informazioni a chi vogliamo noi e non a chi se le prende vendendole, giusto nerd della situazione? In realtà privacy e anonimato sono due concetti che molto spesso vengono confusi, ma sono ben distinti. Sì, sì, chiaro. Sì, infatti la privacy è appunto il rispetto dei propri dati privati, che tra l'altro, per esempio, come faceva notare Garulf nel seminario, nella vita reale, tra virgolette, spesso e volentieri è tutelata alla legge. Per esempio non c'è un omino che va a sbirciare tutte le nostre lettere cartacee, ma nel mondo virtuale è totalmente ignorata, anzi i nostri dati privati sono proprio... quello che fa fatturare miliardi di dollari, per esempio, a colossi come Facebook o Google. Ma la cosa bella di autistici, se posso permettermi, è il fatto che loro stessi ti dicono di non fidarti solo di loro, ma utilizzare strumenti per proteggere ancora, per esempio, quella che può essere la tua webmail, ossia utilizzare chiavi di cifratura per mandare le tue mail, in modo che non vengano lette da intermediari, perché non ci sono solo loro tra te e il tuo mittente. No, loro rappresentano semplicemente un tassello... per quanto riguarda quella che è, diciamo, l'intero quadro che riguarda l'anonimato e la privacy all'interno della rete, ti offrono dei servizi sicuramente che tendono a garantirti queste cose qui, però non sono sicuramente necessari solo questi per navigare e non far sapere i cazzi tuoi alla gente. La cosa in realtà servizi, che dicevo pure... scusami, se ti interrompo, servizi che a loro costano molto, mentre che per noi sono... offrono gratuitamente, gratuitamente. Lo offrono consapevoli del fatto che magari c'è qualcuno cosciente delle loro spese che può fare delle donazioni. E proprio a questo è servita la festa che abbiamo organizzato lunedì, ossia... piano con le birre. No, sulle no, tastiere. No, era un semplice posa cena. Ok. È servita proprio a questa la festa organizzata lunedì, ossia raccogliere qualche soldo da mandare poi ad autistici. E infatti, diciamo che la cosa che vogliamo chiedere una volta per tutte è questa. Per quanto, per esempio, le email che uno si fa su Gmail possono sembrare gratuite, in realtà gratuite non sono, perché Gmail traccia tutti i tuoi dati, li manda a società che fanno mining sulle informazioni che raccolgono e poi ti arriva la tua bella pubblicità confezionata apposta per te, tracciata e tutto questo. Quindi insomma i soldi Google se li fa tramite l'email che noi ci creiamo, non se li fa direttamente perché noi non li paghiamo, però voglio dire sono soldi che comunque gli diamo noi. Sì, diciamo che quando clicchiamo su accetto i termini di contratto che nessuno ha mai letto, in realtà più che un utilizzatore noi stessi diventiamo un prodotto. E se vi sembra anche magari comodo il fatto che potete ricevere la pubblicità, proprio quella che fa per voi, proprio quella che pensavate, la cosa che stavate pensando di comprare, non sapevate nemmeno voi cos'era di preciso e Google l'ha trovata per voi, beh ripensateci perché cioè praticamente sanno tutto di voi. Per esempio tempo fa era uscita la notizia di questo studente di legge di non so dove che si è preso la briga di richiedere a Facebook tutti i propri dati, tutti i dati che avevano su di lui. Lui si è iscritto a Facebook per 2 anni facendo un utilizzo normale. Beh, gli hanno spedito a casa un dossier di oltre 200 pagine, cioè roba che nemmeno quale servizio segreto ha almeno 200 pagine di dossier su 900 milioni di persone. Sì, appunto, ecco, proprio questo, diciamo, la Marco cosa, ci ha azzeccato in pieno. La cosa preoccupante è la scala su cui fanno questo genere sì, di dati. Sì, assolutamente, perché chiunque di noi clicca un vaffanculo di mi piace su qualsiasi stronzata, viene immediatamente immagazzinata questa informazione e venduta. Diciamo che le pubblicità che vi compaiono a fianco del vostro profilo sono assolutamente mirate, non è magia. Si tratta di algoritmi, appunto, come spiega Garolf nel suo seminario, che riescono a raccogliere a estrapolare le informazioni da queste gigantesche mole di dati aggregati. E appunto riescono a profilare per bene le varie persone. La cosa inquietante pure è il fatto stesso che se fosse fatto da una persona questo lavoro sarebbe incredibilmente esoso, mentre fatto dai computer esatto, fatto da computer, da calcolatori risulta addirittura facile. Segnalo un piccolo tip inquietante: se avete Gmail, provate a scrivere nel testo del messaggio ti allego qualcosa e poi non allegate nulla, il simpatico omino di Gmail ti esce e ti dice guarda che hai scritto allegare nel testo dell'oggetto però non hai allegato nulla. Legge tutto quello che scrivi. Legge tutto quello che scrivi. Sembra magia, ma non lo è. Per esempio, un aneddoto. A parte che ricordiamo che per chi ormai si fosse fatto incuriosire a queste cose, potete scaricare la registrazione tutta la serata, anche la registrazione della festa, dal sito di Radio Transizione di Fase, perché era tutto in streaming in diretta. Un aneddoto interessante al riguardo era quello che avevo letto qualche tempo fa, dove un genitore era rimasto abbastanza scioccato perché un giorno gli era iniziata a arrivare posta cartacea a casa di pubblicità di anticoncezionali o articoli prenatal e lui aveva sporto denuncia verso questa azienda visto che la figlia aveva appena 15 anni e praticamente dopo 2 mesi che gli iniziava ad arrivare questa posta ha scoperto che la figlia era incinta. Perché la figlia appunto cercava su Google, visto che era realmente incinta, cercava roba per Google quindi sapeva prima del padre che la figlia era incinta. Oh mio Dio. Oh mio Dio, è la cosa da dire. Questa è la cosa, perché noi diciamo nella nostra vita reale facciamo, se diciamo le persone più accorte fra di noi fanno molta attenzione a come trattano le informazioni che riguardano noi stessi. Ma quando accendi un computer non te ne frega un cazzo, tanto dici chissà. Non c'è nessuno che mi ascolta. E invece, come ripetiamo ogni santa volta, le informazioni che viaggiano via etere sono assolutamente controllabili e controllate, che è la cosa peggiore. Quindi facciamo molta attenzione, usiamo tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, perché la tecnologia c'è, è di facile utilizzo, non è nulla di trascendentale, non bisogna essere dei geni dell'informatica per utilizzare queste tecnologie. Magari poi uno pensa, crittografia, aiuto, professore. Sì, perché la crittografia, per quanto matematica possa essere, alla fine gli strumenti da utilizzare sono semplicissimi, sì. 2 clic su un mouse, un plugin, ti crei una chiave, insomma. Lo scarichi per Firefox per scaricarti i video da... da YouPorn o da Mega Upload, che non esiste più. Scarichi il JDownloader per Firefox, scarichi le meglio puttanate. Puoi scaricare anche Enigmail per Thunderbird. Per Thunderbird, per mandare le email in maniera... Perché il fatto di dire non ho nulla da nascondere, quindi perché dovrei cifrare le mie email, è una scusa bella e buona che viene spesso riportata. Io non è che ho nulla da nascondere, però non voglio semplicemente che i cazzi miei lo sappiano le altre persone. Ma non le altre persone, Google. Per le altre persone, che poi mi vende. Persone che non decido io, esatto, insomma, assolutamente esatto. Questo. Così certo. come quando vai a parlare con una persona, se vai a parlare con quella persona, non ha senso che c'è il tizio che ti origlia. Diciamo che alla fine tutte queste accortezze che sia i governi, i poteri forti che i media mainstream cercano di far passare come atteggiamenti da terrorista. Infatti c'è anche l'ultimo rapporto dell'FBI su il sospetti e terrorismo, che per esempio va a dire che chiunque usi in un internet point, per esempio Tor, per rendersi anonimo o comunque avere una connessione più sicura, può essere sospettato, perché è un atteggiamento sospetto. Sarebbero nient'altro che il corrispettivo nella vita reale di chiudere la porta di casa e sigillare un'email, sigillare una busta con la lettera che stiamo inviando a un nostro amico. E soprattutto è molto importante, ricordiamoci che benché tutti questi strumenti siano liberi e gratuiti, da autistici a Enigmail, a Thunderbird, a Tor, a GPG, sono tutti progetti che comunque per lo più vivono del sostentamento degli utenti. Quindi ricordiamoci che comunque dietro c'è un grande lavoro di sia appassionati, ma anche comunque di gente che ci investe un sacco di tempo e sforzi, e andrebbero supportati. È importante. In the red hot brown sun says bring me my six shooter Lord wants my 41. E c'è anche un ottimo modo per sostenere autistici, che è per esempio quello di acquistare lo splendido libro che sta per uscire a fine maggio. Chaos. Che, esatto, Chaos, che era prenotabile anche quella sera. È vero Cicci, di che parla sto libro? Sì, in sostanza si parla di questi 10 anni di vita di autistici. Ricordiamo, autistici è andata nel 2000... Autistici in 20, 2001. Sì, vabbè, 10 anni, adesso la cosa è partita nel... Stavo dicendo 2011, il mio fail. No, è partito, diciamo, questa campagna di sostentamento, di creazione del progetto e quindi di copertura delle spese editoriali nel 2011. Adesso uscirà, perché ovviamente i tempi editoriali per quanto riguarda le produzioni al basso sono sempre più lunghe rispetto a quella che può essere una casa editrice normale. Si parla in sostanza della storia e la vita di queste due realtà che si sono fuse e che sono nate nel 2001 in occasione del G8 di Genova. E quindi no, è un libro sicuramente, io ho letto, diciamo, come dire, non so come si chiama il trailer di un libro, erano... Anteprima, Gigi. No, era un libricino piccolo. La trama. Non lo so, erano cose strane. Il trailer di un libro. Sì, era praticamente... Hai letto il trailer di un libro. Era un mini libro fatto da Ginox, che appunto parlava di come era nata la cosa. Salutiamo Ginox. Sì, da come era nata l'idea, come è nata, secondo me è un'ottima idea, perché far conoscere tramite gli aneddoti, sicuramente ci saranno cose sia divertenti che cose meno divertenti riguardo questa realtà. Io lo comprerò sicuramente, non vedo l'ora che esca. Mi raccomando, fatelo anche voi, perché questo è un altro modo per sostenere questa realtà. Ma quanto si vende? Il prezzo sinceramente non lo ricordo. No, ma ancora mi sa che non c'è. Comunque poi sarà anche in creative. Probabilmente si potrà anche scaricare. Ma cioè, voglio dire, a parte la bellezza di avere un libro di carta simile in mano, poi fate anche una buona opzione, voglio dire. Detto da te, non ci ecco, credo. È l'unica volta che magari diciamo di non, esatto, scaricare qualcosa, perché questo qui ha un forte valore di aiuto. Oppure scaricatelo, ma dategli una donazione, cioè. Vabbè, perché sì, sai, sì, no, ovviamente in questo senso. Se lo compri, sai che saranno soldi che non ingrasseranno le grandissime multinazionali, ma saranno per un qualcosa. Non ha detto una minchia. No, assolutamente. Comunque, bene, dopo questa ampissima ma doverosa discussione su autistici, e quella che è comunque l'animato della privacy in generale. Salutiamo autistici. Salutiamo autistici, un grosso in bocca al lupo. Fra poco avranno quella che è diciamo, l'incasso della nostra serata. Anche se... Io gli ho regalato dei soldi. Vabbè, niente. Sì, no, io sto aspettando come Marco che ci paghino per fare una donazione, diciamo, un po' più consistente. Passiamo al prossimo pezzo. Che è un pezzo richiesto dal nostro Nosendai. Sì, di cui diciamo che... Che poi magari ne parlerai anche tu, visto che io mi sono intromesso in questa discussione nerd. Tu intromettere no, io non ne parlo, semplicemente ce l'avevo in testa stamattina e non so il perché, però... Perché, poi te lo spiego, perché, poi te lo guarda, spiego. E tu non hai quello che c'hai, cioè insomma, capisci? No, tu non hai quello che indizio. C'hai. Tu non hai quello che c'hai. Sì. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta e avervi più distanti. Quello che non ho è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove son partito. I denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia. Quello che non ho sono le mani in pasta. Quello che non ho è un indirizzo in tasca. Quello che non ho sei tu dalla mia parte. Quello che non ho è di fregarti a carte. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho. quello che non ho. Ringraziamo Ciccio. Quello che no, che sarebbe uno streaming funzionante. Anche quello che hai detto quando sei venuto qui a controllare lo streaming non funzionante. Ossia, una. Non lo diciamo. Vorrei ringraziare Ciccio, comunque lo saluto per averci segnalato questo piccolo problema, anche se un pochettino in ritardo. Ma anche però. Gesù per averci provocato questo piccolo problema. Esatto, e soprattutto quelli di Ciroma. Non ti avviso che non connette ancora. No, andava. No, non è connesso, quindi. Vabbè, vi scaricate il podcast. Comunque io ho scoperto perché avevo in mente questa canzone. Perché io stamattina mi sono svegliato e non avevi qualcosa. Una camicia bianca. No, e avevo in mente questa canzone. Poi l'ho sentito, ho detto ma è da... Non mandiamo mai blues italiano. Cioè, che alla fine era un pezzo blues. Vorrei sottolineare... Non abbiamo mai mandato De André, vergogna dei Mozilla Bros. No, abbiamo mandato De André. Quando? Quando abbiamo mandato? L'ho mandato Ciccino, non a vale. Fine trasmissione, una volta penso quando verso gennaio, quando c'è l'anniversario della morte. Comunque si vede che nella mia ora di TV che uso per farmi il sangue amaro davanti ai TG e guardare i Simpson, avrò intercettato la pubblicità di sto coso di Saviano. Che ci vediamo. Che non ho visto. Quello che non ho. Quello che non hai. Niente, streaming non va. Ok, salutiamo gli occhi di Waco sul microfono. È arrivato il cantante, probabilmente sì. Che salutiamo. Ma comunque, il problema è un altro, che lo streaming non è andato. Ma comunque, porco. Lasciamo stare le bestemmie che ci sono tutte e parliamo magari un poco di questo pezzo, vero Paolo? Tu mi hai confessato che col tuo Like a Sir gruppo sì, da jazzisti che ve la tirate, lo facevi. Non eravamo jazzisti e non ce la tiravamo, però facevamo sì. Ve la tiravano appresso. Sì, forse sì, però non lo so. Comunque, lo facevamo qualche ottava sopra perché D'Andrea ha proprio una voce... Una voce calda. No, poco dark. Quello però che... No. Ti piace sta. Ti piace. E quindi? E quindi è un bel pezzo. Che cosa vuoi? Un bel blues di D'Andrea che, come sappiamo, fa... Un sacco di generi, di pezzi, anche magari tocca, non lo so, il folk, il pop inteso come popolare. E questo invece era un gran blues che un blues sentito. Rock, diciamo, che la sì. Chitarra era molto, si sentiva una chitarra molto forte. Molto forte, sì. Da un album dell'81, se non sbaglio. Sì, esatto. Ricordiamo comunque di André che non solo come generi è poliedrico, ma anche come tematiche si avvicina molto alla, diciamo, alla nostra ideologia, quasi molto filo anarchica. Comunque come potrebbe essere di tutti i componenti di Mozilla Bros, tranne forse qualcuno. Non voglio tirare fuori nessuno, ma non voglio sicuramente tirarmi fuori io. Sarebbe l'ideale se tutti quanti parlassimo pure un pochettino di D'Andrea senza bestemmiare. In che senso senza bestemmiare? Perché? Perché D'Andrea, diciamo, non merita bestemmiare. No, ma voglio capire, senza bestemmiare vuol dire senza dire cose che possono offendere la sensibilità dei cristiani oppure senza dire sciocchezze? Senza dire sciocchezze. Ah, ok. Io ci piano. Secondo te perché Marco ha scelto questo pezzo? No, io credo che sia, diciamo, questo subconscio che quindi, diciamo, si è risvegliato. Te l'ha buttato dentro Saviano. Me l'ha buttato, capì, che è l'offio. Probabilmente mentre facevo zapping aspettando i Simpson. Tac! Hai visto quello che non ho... Hai pensato... Ha pensato... Key blues. No, ha pensato... No, che cosa ti ricorda questo pezzo, Marco? Cioè, perché quello che non ho? Ah, voglio un cazzo, ve l'ho spiegato. Stamattina mi sono svegliato, ovviamente sta canzone. E l'ho ascoltato, ho detto minchia. Eppure blues, mandiamola in trasmissione. Non è così elaborato il mio subconscio, è molto semplice. Cioè, o porno o roba strana che non capisco. O roba a caso. Oh, magari c'è due, se si riescono a mischiare. E lì non ti dico che gioia. È arrivato il cantante in trasmissione. Sì, assolutamente sì. Io trovo un attimino superfluo forse parlare di De André così a grandi linee. Cioè andrebbe fatto una discussione un pochettino più approfondita. Ma ne hanno pure fatte già troppe, secondo me. Secondo me ascoltatelo, scaricatelo. Tanto ormai è morto, quindi soldi non ne piglia dei CD. Che ne dica la SIAE. A proposito di SIAE, lo ricordiamo un appuntamento interessante, ma forse balordo di domani, Cicci. A bordo sarà sicuramente, perché visti i presupposti con cui abbiamo deciso di recarci lì, sarà balordo. No, è un appuntamento che c'è come al solito, con un po' di rammarico, lo dico, all'Unical, che interessa questi aspetti su diritti d'autore, pirateria, cazzi e mazzi, minolli, la solita cosa. Minolli. Anche se forse era come... Cos'era un minollo? Aperitivi. Allora, mo vai su Google, cerca minollo e fatti una cultura. Non ce l'ho Google. No, che poi sanno quello che hai cercato. No, vabbè, è stato impostato come tavola rotonda. Infatti ci saranno anche alcuni blogger... diciamo che da sempre si oppongono alle super stronzate che ci propina chi vuole tutelare il diritto d'autore a tutti i costi. Ma ci saranno anche dei personaggioni tipo un tipo della SIAE di Napoli. Cioè, pensa tu come deve essere frustato il tipo della SIAE di Napoli. Frustato? Proprio frustato e frustrato. Sì, diciamo che questo disgraziato, secondo me, ha il compito, appunto. Vabbè, non è solo di Napoli. Tu che sei di Napoli, cosa ci puoi dire? Che cosa? Sulla SIAE. Vabbè, io che so, cioè io pure che non ero di Napoli, ti potevo parlare della SIAE. Sicuramente lì è un po' più complicato, magari, controllare diciamo tutto così, quanto. Vabbè. Magari lì hanno i film prima che vadano a cinema, però quelli sono altri discorsi. Prima che escano a Hollywood, forse. Poi, non lo so, potrete anche incontrare una tipa della polizia postale di Cosenza che si occupa di arrestare questi pericolosissimi scaricatori illegali quindicenni, dandogli anni di galera per aver scaricato una canzone. Comunque, essendo proposta come tavola rotonda, comunque, vabbè, noi un salto ce lo facciamo, stiamo ad ascoltare, magari se ci fanno parlare parliamo, eccetera, eccetera. Non penso che monteremo la Pirate Box, però magari portatevelo un computer, casomai vedete una rete Pirate Box, potete caricare e scaricare file. E vai. Sì, diciamo che ci stiamo, come Op. Dire... Autoconsegnando alle autorità competenti. No, vabbè, perché ricordiamo che il mezzo non è mai illegale. Ovviamente poi il contenuto, cioè il peer-to-peer non è illegale, nonostante quello che cercano di propinarci. Lo scaricare, il caricare contenuti protetti da leggi d'autore ad essere illegale. Ricordiamo anche che, per esempio, spesso e volentieri dietro queste leggi che lasciano il tempo che trovano, ci stanno preoccupanti tentativi di censura e di controllo della rete, perché ricordiamo che per beccare chi è che scarica devi comunque monitorare una connessione, quindi intercettare comunque tutto il traffico. E a proposito, c'era anche una news nerd buona, vero Cicci? A proposito sì, di leggi stupide. Sì, a proposito di leggi stupide, c'è chi dopo 10 anni si rende conto di aver fatto cazzate, nonostante il suo blog personale si chiami Articolo 21, che è un articolo della Costituzione che, come dire, tenta di difendere quella che è la libertà di espressione. Insomma, 10 anni fa hanno fatto questa legge assurda in cui inserivano i blog come materiale soggetto alle leggi sull'editoria. Se non che, grazie per modo di dire a questa legge, un blogger siciliano impegnato in denunce contro la mafia, Carlo Ruta si chiama il blogger, quindi un territorio difficile, un lavoro difficile per quello, appunto, per il territorio in cui si trova. Grazie anche lui a queste sue denunce che faceva sul blog, è stato costretto a subire un processo, ha dovuto pagare quella che era stato condannato al pagamento di una sanzione in denaro, se non che la Cassazione, notizia di questi giorni, ha appunto detto che invece no, i blog non sono ascrivibili a quelli che è materiale editoriale, quindi diciamo Carlo Ruta è stato definitivamente prosciolto da questa accusa assurda. E niente, un ennesimo aruculo a queste leggi che tentano di censurare quella che è la libertà di informazione. Cioè, questo è come se ne servisse ancora un altro esempio. L'ennesimo esempio di come, appunto, dietro queste leggi spesso e volentieri ci stanno forti interessi di controllo della rete. E, tra parentesi, diciamola pure sta cosa, ancora una volta non si capisce dov'è che inizia lo Stato e dov'è che comincia la mafia qui in Italia. Sì, come al solito diciamo che queste leggi che vengono fatte, insomma, non si capisce il, diciamo, il vero perché, perché poi alla fine gli stessi autori di queste leggi se le rimangiano, però dopo che hanno fatto abbondanti danni, insomma. Comunque ho trovato finalmente il titolo del seminario che ci sarà domani, ed è importante, si chiama La crisi del diritto d'autore, il copyright tra mercato legale e pirateria. Quindi diciamo già il titolo promette bene. Wow. Infatti, sicuramente sarà il solito snocciolamento di fantomatiche perdite dell'industria cinematografica e musicale, che sono state ampiamente smentite da numerosi studi indipendenti, perché sti signori hanno anche il vizio tipo di la Virgin o l'EMI commissiona studi sulla pirateria, che ovviamente sono di parte, e dimostrano ste miliardi di perdite. Invece tutti gli studi indipendenti dimostrano il contrario. Anzi, sembra che chi scarica più musica solitamente poi è anche uno dei maggiori compratori di contenuti originali. È chiaro. Per esempio il nostro Lorenzo ha un sacco di CD e DVD originali di Daniele Silvestri. Sì, no, però ce l'ho, c'ho bei CD originali. Qua c'è là, insomma. No, Madonna. Rihanna, per la Madonna. Miku Pulici, insomma, quella roba là. Mimmo Cavallaro, che salutiamo, tra l'altro. Quindi domani accorrete numerosi in Aula Magna, che ora è, mi sa, dopo pranzo, con calma, verso l'una e mezza, le due. Sì, quell'ora là. I lavori inizieranno alle 14:30. I lavori. Comunque dai, è almeno una tavola rotonda, non è un tipo quegli indottrinamenti che fa la Microsoft puntualmente all'Unical, che sono sempre a senso unico. Questa canzone gay. I peggio anni 80. Infatti chi l'ha scelta sta cacata, allucinante. Tu. Io non so come si trovato un po' generico. Ebbene, siamo arrivati all'ora di trasmissione. Anche se quest'oggi non abbiamo ricordato i nostri contatti. Sì, che mancano 4.000. Manca il contatto. Adesso mi sembra pure superfluo. Lo vuoi fare tu? Sì, dai, ci provo. Se volete chiamarci, anche se è tardi, potete trovarci al 28250. Sì, 084-28250. Ci potete trovare sui siti www.mozillabros.com. In streaming quando funziona, però in podcast da domani. Saremo in replica su Radio Transizione di Fase, se va. Radio Transizione di Fase, mi stavo ponendo adesso il punto interrogativo, sinceramente non so, credo di sì. Sì, siamo sempre in, per esempio, lunedì lo streaming mi sa che è il santo Gigizu, che si piglia sempre l'onere e il non onore di caricare la nostra puntata in streaming, visto che noi siamo grandissimo Gigizu. Sì, troppo minchia, grazie Gigizu. Prima o poi lo faremo noi davvero. E siamo ogni lunedì intorno alle 20. Infatti per streamare i seminari, la diretta dalle officine della festa autistica, abbiamo interrotto la nostra replica l'altro giorno. La miseria. Diciamo, ecco, non facciamo del male a nessun altro se non a noi. Ma noi non l'abbiamo l'accesso per caricare sto cazzo. Non è del tutto vero, a me l'hanno dato veramente. Però Gigizu, giuro, prima o poi me ne sono scordato. Non potevo, terremo cavallette. Giuro che Cicci, lo vuoi fare tu? Sì, lo faccio. Dammi sti cazzo di dati. Ok, GG, è fatto. Lo fa Cicillo. Glielo ho appioppato a Cicillo. È uno serio, quando dice che fa una cosa la fa, non come me. Noi lo sappiamo. Maledetto. Comunque, passiamo alla prossima. Passiamo alla prossima e poi al momento più atteso della trasmissione. Io però devo, diciamo, fare poi un piccolo flash su una news troppo carina. Flash. Troppo carina. Quale? Va bene. Troppo una carina. Di quelle... So, sì, diciamo... Tipo... I giapponesi hanno superato se stessi. Ritornano i gadget del nostro nerd tipo. Diciamo che non è proprio un gadget, è una di quelle cazzate colossali. Mi piace definirle. Bene. Comunque, diciamo, non faccio... Assolutamente anteprima spoiler, di niente. Spoiler. Dovete aspettare fino alla fine. Quale c'è? C'è. Comincia con. No. Ok, allora vai, c'è, mettila. No. Ah, tu quindi per esclusione vai. Sì. Va buono, va buono. Ale. Questo era Hendrix. Il nostro amato è. Che vuoi, mica. Mica c'è qualcuno. È possibile che qualcuno non lo conosca, no? Minchione. Il cantante si è chiesto: ma hanno chiamato me Hendrix? Vi riferivate a. In inglese. E la miseria, non credo proprio. Perché ha detto che è lo stesso nome. In inglese cioè non avete colto, diciamo, la cosa, la finezza. Ah, Andrea, no, sì, Hendrix, certo. So. Fate uno sforzo, io, madonna. Dove mi trovo? Sì, dove mi trovo? In parte sì, perché ora è quasi il tuo turno. Abbiamo però quasi, c'è abbiamo un cicillo che freme per raccontarci. Che frene. Che sta mangiando il microfono. Professor. Tanto una firmetta. Professor. Tanto una firmetta. Anche una. Ci aggrega. Insomma, che ci vuoi raccontare, Cecil? Davvero non so se è ascrivibile alle le cose inutili, ma questa è proprio una cazzata. Cioè, in Giappone, secondo me, proprio hanno tanto di quel tempo libero che non sanno come sprecarlo. Oltre a farsi esplodere centrali nucleari, sì, vabbè, addosso. Diciamo, a proposito, poi parleremo anche delle centrali nucleari che esplodono. Insomma, questi spertazzoni del Sol Levante hanno inventato chiappe robotiche. Sì, sì! Adesso io voglio sapere che cosa cazzo ve ne fate di chiappe robotiche. No, lo voglio chiedere a ognuno di lo voi. Lo voglio sapere anch'io, in realtà. Secondo me è ovvio che comunque i robot in qualche modo daranno in là una specie di nuovo turismo sessuale. Un sol diesi. È sicuro questo. Un sol diesi. Quindi, cioè, è palese a cosa servono. No, ancora per me non è palese. Che cosa sono queste chiappe robotiche? Cioè, praticamente è presente quando uno viene con una piuma sulle tue chiappette, che tu contrai i muscolini e le chiappette, stringi forte, forte, forte così e poi lasci. queste chiappette fanno queste cose qui. Cioè, reagiscono agli stimoli provenienti dall'esterno, si contraggono come muscoli dovrebbero contrarsi. Boh. Va bene. Ma che minchiata. No, ma adesso tu. Jack Daniels, mi devi dire che cosa te ne faresti delle chiappette robotiche. Dipende. Prima di tutto dare la priorità a una prostata robotica. Poi in caso se ne parla. Cioè, le chiappe. No, adesso no. Fail 2. Fail 2 me lo faccio dire da Fail 1, mi sa, perché Fail 1 ha dato una risposta, diciamo, in parte evasiva, però che comunque ha un suo perché. Sì, va bene. Vabbè, aspetto che la compra Lorenzo, che sembra molto interessato. Io ancora non ho capito che cazzo sta parlando. Io in realtà sto aspettando che esca il plugin per contrarre i movimenti intestinali. Poi me le compro. Problemi di stitichezza. Che cos'è sta cosa? Com'è? Comunque, qua leggo che è lo stesso laboratorio che l'anno scorso aveva annunciato di stare lavorando al bacio artificiale. Quindi, cioè, quindi secondo me la direzione è chiara, Robotroie. Vabbè, continua a non vedere. Continua a non vedere il nesso. Perché, vabbè, perché? Lasciamo stare. Lasciamo stare. Ma sei limitato tu, Cicci. No, allora, mo devi spiegare proprio perché, chiaramente, queste chiappe robotiche dovrebbero essere successo. Ma proprio me lo devi spiegare. Devi farlo capire a tutti i bambini che ci stanno ascoltando. I bambini. Bambini. Avete presente quella vostra compagnuccia di banco che tipo voi ancora non capite bene perché, però gli guardate sempre il culo e dice non fai toccare le tici, no. Con i robot non avrete sti problemi perché seguono ordini. È chiaro. Quindi tu gli dici R2D2 a 90. Beh, a 90. Lei lo fa. Sì, io stavo pensando la stessa cosa. Che signore. Ho il plug USB che... Allora, per queste cose, come sapete tutti, ci sono le bambole, ok? La necessità di avere i muscoli che si contraggono del culo, non lo capisco! È l'interazione, è come... Il culo non è l'ano che si contrae, lo puoi capire! Ma perché c'è scritto sperimentali? Cioè la versione 2.0 probabilmente farà avrà il plugin, tutto. Avrà il plugin, per plug out pure, forse. Avrà il out. Spero proprio di sì. Ma sì, ma se era per Cicillo ancora eravamo alle BBS. Lui queste cose 2.0 non le capisce. No, sono meno 100.1. A parte che forse potrebbero anche essere le protesi. Ammettete che un transessuale che ti brasiliano si rompe il culo, Marco. Vi strappa le chiappe a morsi. In quel caso, diciamo. Se, tu cosa ne pensi? Sono trovato più volte in questa situazione. Lo sapevamo bene, perciò porco il clero abbiamo detto, l'abbiamo chiesto a te, diciamo. E non vi ho deluso, diciamo. Comunque, dopo questa ottima notizia, abbiamo il momento, questo è davvero il momento più atteso. Esatto. Della nostra trasmissione. Il nostro Andrea Hendrix, cantante, ci canterà stasera. Va bene. E cosa ci canti, Andrea? Shivar, è una cantante. Shivana? Anni 90, buonasera. Buonasera. Ricordo questa canzone. Come si chiama la cantante, scusa? Non ho... Shivar. Non lo so se ve la ricordate. Sì, noi ci ricordiamo Shivana, ma neri. Va bene, dai. Se c'hai i capelli lunghi neri, va bene. Sì. E poi vi canto una canzone in italiano dopo. È una sorpresa. Poi ve la dico dopo. Attenzione. Vai. I love her, will it fall away? Vi canto l'altra canzone in italiano di Lucio Battisti, Ancora tu. Questa parla e canta. Ancora tu, ma non dobbiamo averci più. Che freddo sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Ed un attimo non è possibile, e un attimo non è possibile. Io lo so cosa tu vuoi sapere. Nessun anno sono ripreso a fumare. Ancora tu sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Ed in arti non è possibile, ed in arti non è possibile. Ed amore mio, ringrazio ancora tu, sperando che non sia follia, ma sia quel che sia. Abbracciami amore mio, abbracciami ancora mio, e sai che sono anch'io. Ancora tu, non dovevamo vederci più. Che freddo sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Buona serata, grazie. Bravo, radio, grazie. Ciro. Paolo è stasiato. Sì, l'ho visto parecchio coinvolto, sì, devo dire la verità, eh. Vorrei unire al... Toccato, toccato. Per un duetto, ti proponi per un duetto? L'abbiamo sentito no, tutti? No, non me la sento. È registrato. Nella prossima puntata... Ti fai forte delle chiappe robotiche. Tutti i pinocchi con le chiappe robotiche degli altri. Ecco a cosa possono servire, hai visto? Fail, da bravo Fail ha dato una risposta proprio... Comunque, siamo arrivati al termine del nostro spazio, del nostro tempo. E meno male, voglio dire. Meno male, dice qualcuno. Io mi dissocio. Meno anale. Meno anale, dice Marco. Mi dissocio anche da questo. Ebbene, niente, ci rivediamo mercoledì prossimo. Questi sono i Mozilla Bros. Tante sì, vi cose, salutiamo, risalutiamo Garuf, Andrea che ci mancano. Assolutamente, PDG. Sì. Speriamo di tornare al più presto a una formazione davvero completa. Esatto. E salutiamo tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato e ci hanno sopportato. Ricordiamo il nostro preziosissimo contributo a Twitter che abbiamo dato oggi. Ciao Barack Obama. Arucolo Z. E niente, vabbè. Politica estera. Ci vediamo mercoledì prossimo. E ancora un abbraccio ai ragazzi al cartello. Sì, assolutamente. Vi terremo aggiornati comunque nella prossima puntata, sicuramente su quello che si sta muovendo anche per quanto riguarda il cartello. Sicuramente ci sarà, organizzeremo presto una serata di beneficenza, o meglio, per la raccolta fondi, per la ricostruzione di questo splendido centro sociale a Reggio Calabria. Niente ragazzi, un abbraccio a tutti. Buonasera. Quanti e venite domani a farvi due grosse risate. Grazie. In Aula Magna. Oh yeah, portate le vostre chiappe robotiche. Voi lo sapete il titolo di questa canzone in inglese? Sì? Io forse lo so. E qual è? Non lo so. Dai che lo sai. Lore, tu lo sai il titolo di questa canzone? Lorenzo Lorenzo è proprio disconnesso da se stesso ultimamente. AFL, Away From Life. Ana? Ana? Ana? Anacronismi. Vabbè, vaffanculo, non so niente. Ignorante. Analisi 2. Analisi 2. Analgesus.